Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Quinta e ultima favola dell'undicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Renzo Clerico. Vicenza, a cui l'ultimo luogo della presente notte toccava, alla sua favola in tal maniera diede cominciamento. Favola quinta. Frate Bigoccio s'innamora di Gliceria e, vestito da laico, fraudolentemente la prende per moglie e, ingravidata, l'abbandona e ritorna al monasterio, il che, presentito dal guardiano, la marita. Ho più volte udito dire, donne mie care, che la virtù perisce per la fraude, e questo avvenne ad un religioso tenuto uomo divoto, il quale, acceso dell'amor di una giovanetta, quella per moglie prese, e scoperto, fece l'amara penitenza, e la giovane fu onorevolmente maritata, siccome nel discorso del parlar mio intenderete. In Roma trovavasi un frate Bigoccio, nato di nobile e generosa famiglia, giovane assai e dotato dei beni del corpo e di fortuna. Il miserello era talmente acceso dell'amore di una bellissima giovanetta che poco vi mancava che giunto non fosse al fine della sua vita. Egli non aveva riposo mai, né giorno né notte, era tutto attenuato, squallido e macilente. Non gli valevano medici, non medicine, non rimedi d'alcuna cosa, né giovavagli la speranza nella copia delle paterne ricchezze. Per il che, stando egli di continuo in questi pensieri, er or uno, or un altro rimedio fantasticando, divenne a questo consiglio di fingere alcune lettere false indirizzate al suo superiore per aver licenze di partirsi. E compose certe lettere fittizie e simulate, infingendo che il padre suo infermo quelle scrivesse al suo guardiano in questa forma: «Reverendo padre, poiché piace al sommo onnipotente Dio di terminare la mia vita, né può molto tardar la morte, che oramai è poco lontana, ho deliberato, anzi che io mi parta da questa, fare il mio ultimo testamento ed istituire erede il figliuol mio, che appo vostra reverenza e professo. E perché a me non è rimaso altro figliuolo in questa mia vecchiezza, se non questo solo, qual desidero grandemente vedere, abbracciare, basciare e benedirlo, quella priego le piaccia mandarlomi con ogni celerità. Altrimenti sappia a vostra riverenzia che morendo di disperazione me n'andrò ai regni tartarei». Qual lettere presentata a guardiano del monasterio ed ottenuta la licenza, il detto Bigoccio n'andò a Firenze, dove era il paterno domicilio, e prese molte gioie e danari dal padre, comperò preziose vesti, cavalli e masserizie, e andò a Napoli, dove, tolta a pigione una casa presso la sua innamorata, cambiavasi ogni giorno di vesti di seta mutatorie di diverse sorti. E fatta bellamente amicizia col padre dell'amata donna, invitavalo spesse volte a desinare e a cena con esso lui, e presentavalo dandogli or una or un'altra cosa. Poiché molti giorni furono scorsi in questo modo, trovato il tempo congruo ed opportuno, un giorno dopo desinare, cominciarono a ragionare di diverse cose e particolari suoi negozi, siccome era costume dei conviventi, e tra l'altre cose dissero innamorato giovane di voler tuor moglie. E perché aveva inteso che egli aveva una figliuola molto gentile e bella e dotata di ogni virtù, avrebbe piacere che egli la desse per moglie, acciò che legati fussero con due legami, affermando a questa solamente avere inclinazione per le ottime sue condizioni a lui riferite. Il padre della giovane, che era di bassa condizione, gli rispondeva: «La figliola sua non esser di pari o ugual condizione a lui, che se abbino a celebrare tai sposalizi. Perciò ella era povera ed egli ricco, ella ignobile ed egli nobile, ma quando gli piaceva, che eppure gliele darebbe non tanto per moglie, ma piuttosto per serva. Disse il giovane: «Non sarebbe conveniente che, si fatta giovane, mi fosse data per serva, ma per le condizioni sue meriterebbe uomo di maggior legnaggio di quello che sono io. Pur si vi è in piacimento di darmela, non per ancilla ma per diletta moglie, l'accetterò volentieri, e farolle quella real compagnia che ad una vera matrona si conviene». Furono e finalmente di comune sentimento concluse le nozze, e tolse fra Bigoccio la Vergine Pulcella per moglie. Venuta la sera, il marito e la moglie andarono a letto, e toccandosi l'un l'altro, fra Bigoccio s'avvide che Gliceria, sua moglie, aveva i guanti in mano, e dissele: «Gliceria, cavati i guanti e mettili giù, perciò che non sta bene che quando noi siamo in letto tu abbi i guanti in mano». Rispose Gliceria: «Signor mio, io non toccherei mai così fatte cose con le mani nude». Il che intendendo, fra Bigoccio non disse altro, ma attese a darsi piacere con lei. Venuta la sera seguente e l'ora di andare a riposare, fra Bigoccio nascosamente prese i getti da spariviere circondati di molti sonagli e legogli al membro virile. E senza che ella se ne avvedesse, andò a letto e cominciò a carecciarla, a toccarla e basciarla. Gliceria, che aveva i guanti in mano e per là dietro gustato il mattarello, pose la mano al membro di suo marito e trovò i getti e disse: «Marito mio, che cos'è questa che io tocco? Iernotte non l'avevate». Rispose fra Bigoccio: «I sono i getti da andare a spariviere», e montato sopra l'arbore voleva mettere il piviolo nella val pelosa. E perché i getti impedivano il piviolo entrare, disse Gliceria: «Io non voglio i getti». «Se tu non vuoi i getti», rispose il marito, «né io voglio i guanti». Onde di comune consentimento gettarono via i guanti e i getti. Dandosi adunque piacere notte e giorno, la donna si ingravidò. E come marito e moglie abitarono insieme un anno. Poi, appropinquandosi il tempo del partorire, il frate, tolto occultamente il buono e il migliore, di casa fuggì, lasciando la donna gravida come sopradetto. E vestitosi del suo primo abito, ritornò nel monasterio. La donna partorì un figliuolo e aspettò lungamente il suo marito. Soleva questa donna alle volte andare al detto monasterio per udir messa. Avvenne un giorno, per avventura, anzi per volontà del sommo Dio, che la trovò il frate suo marito che diceva messa, e conobbelo. Onde, quanto più presto a lei fu possibile, andò a trovare il guardiano di esso monasterio e narrògli diligentissimamente il caso, come di sopra seguito. Il guardiano, trovata la cosa e conosciuta la verità, formò contro di lui processo e sigillato mandollo al generale della congregazione, il quale fece prendere il frate e dirgli una penitenzia che si ricordò per tutto il tempo della vita sua, indi con i denari del monasterio occultamente maritò la donna, dandola ad un altro in matrimonio, e tolto il bambino fecelo nutrire. Fine della storia. Qui pose fine la graziosa Vicenza alla sua favola, la quale tutti generalmente lodarono e ne presero piacere quando la donna con i guanti in mano trovò i getti ai quali erano attaccati gli sonagli. E perché l'ora giammai era tarda, la signora impose a Vicenza che il suo enimma dicesse, la quale, non aspettando altro comandamento, così disse: «D'ognun prendo se non la forma mia. Guardate ben qual è io stato mio. Se mi si fa dinanzi alcun che stia, lieto e doglioso io sto com'ha il disio. E perché mostro il ver dalla bugia, molti mi chiaman frodolente e rio. Questo pare impossibile, gli è pur vero, ch'io non so dimostrar bianco per nero». Che cosa volesse denotare l'enimma da Vicenza raccontato, niuno seppe dire, perciò che sotto la corteccia era il vero senso nascosto. Ma la prudente Vicenza, per non lasciarlo insolubile, in tal guisa l'espose: «Il mio enimma altro non dimostra se non il specchio, in cui si guardano gli uomini parimenti e le donne, il quale apprende la forma di ciascuno che il mira, ma non la sua, egli non vi dimostra una cosa per l'altra, ma tal qual voi siete. Ingegnoso fu l'enimma, ed ingegnosa l'interpretazione, ma perché oramai incominciava a parir l'alba, la signora diede licenza a tutti che s'andassero a riposare, con condizione però che tutti nella seguente sera ben armati venissero, che ella voleva che ognun dicesse una breve favola accompagnata con un bel enimma. E così tutti promisero di fare. Fine della quinta e ultima favola dell'undicesima notte. Fine dell'undicesima notte.